La donna affascinante ti colpisce al primo istante. La donna che ti piace ti fa perdere la pace. Amico, ricordalo ancora, per chi si innamora più scampo non c'è. Attento a te, attento a te. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto, che ci vuoi far? Siamo nati per amar. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è? La donna, la donna. La vita son la cosa più gradita, seppure un po' spinose, sempre sono come rose. Purtroppo qualcuna sorride, si scusa, ti dice: amarti non so, non posso, no, no, proprio no. Pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, la donna, chi viene vinto da quell'incanto, sospira mentre soffre tanto, che ci vuoi far? Siamo nati per amare. E perciò tutti gli uomini innamorati, fortunati o sfortunati, non si stancano di cantare. Il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è? La donna, la donna. Del pericolo, l'amor che brucia l'anima, la gioia che fa vivere, diciamolo, chi è? Chi è? La donna.